Letture di Radio 24. Paga in ritardo, ma pretende puntualità, tranne che per qualche privilegiato. E anche quando sbaglia, costringe i cittadini a pagare, per evitare sanzioni peggiori. Cresce lo scontento degli italiani nei confronti di Equitalia, la società che dal 2007 si occupa della riscossione dei tributi. C'è chi è molto arrabbiato. Mi hanno ipotecato la casa e nemmeno lo sapevo. E oltretutto vale 10 volte il mio debito. O anche, Equitalia rovina le vite. Ho chiesto la rateizzazione di un debito IMSS regolarmente dichiarato, ma la cifra è raddoppiata, da 23 a 43 mila euro tra sanzioni, interessi e interessi sugli interessi. È ingiusto. Oppure, non ho mai ricevuto notifica e la multa non mi risulta, ma non riesco a dimostrarlo e alla fine sarò costretto a pagare. E c'è chi ormai è disperato. Voglio che i miei figli sappiano che non devono vergognarsi di me, perché non sono un disonesto e non ho evaso. Da 5 anni ho un debito col fisco, ma ho dovuto chiudere l'attività, sono disoccupato e non posso pagare. Tutte storie che si accumulano a dimostrare che di sicuro Equitalia è entrata a gamba tesa nella vita di molti italiani. Secondo Federcontribuenti, sarebbero circa 6 milioni le famiglie e almeno 1,5 milioni le imprese finite nelle maglie della SPA con capitale pubblico, 51% Agenzia delle Entrate e 49% INPS, che fa riscossione, coatta e non, per vari enti, dalla tassa sui rifiuti per i comuni al canone RAI. Fino al 2006, per il recupero crediti, lo Stato si affida alle banche che incassavano un garantito di circa 500 milioni l'anno. Il vice ministro dell'economia nel secondo governo Prodi, Vincenzo Visco, riforma il sistema. Se non versi le tasse o non paghi le multe, si presenta Equitalia, alla quale l'ente creditore ha inviato le cartelle che dovrebbero esserti notificate. Dalla notifica il contribuente ha 60 giorni per pagare, se fa ricorso 120, dopodiché Equitalia potrà attivare tutte le procedure esecutive e cautelari previste, che vanno dalla minaccia all'effettività di ipoteche, ganasce fiscali e pignoramenti. Si prende un compenso o aggio del 9%, che tocca al contribuente solo per il 4,65% se paga entro i 60 giorni. Il resto a Equitalia lo rimborsano i vari enti creditori. E completamente se paga dopo, mentre si aggiungono anche altri oneri. Dalle sanzioni, che lievitano di circa il 30% annuo, agli interessi di mora, maturati giornalmente dalla data di notifica. A ogni eventuale costo delle procedure esecutive, come le spese di iscrizione e cancellazione di ipoteca, che oltretutto salgono in proporzione al debito. Ma il problema è che a volte le cartelle crescono talmente tanto che il contribuente non riesce a starci dietro. Inoltre, anche di fronte a notifiche non ricevute o errori evidenti, il cittadino, tra uffici che si rimpallano le responsabilità, è costretto a pagare per evitare misure più aspre e poi, solo dopo, contestare. Come il caso di un invalido che, nonostante sostasse in un parcheggio dedicato, era stato multato per sbaglio, ma dopo 3 anni era ancora impigliato in ricorsi e spostamenti per lui estremamente faticosi. A venir contestate sono soprattutto le procedure, perché saranno anche tante le proteste improprie, ma la maggior parte di chi si lamenta non sembra composta da evasori. Ne è certo l'avvocato e consigliere regionale piemontese Alberto Goffi, che da 3 anni raccoglie dati, casi di persone o aziende e studia il problema. L'evasore si nasconde al fisco e quando viene beccato non passa da Equitalia, ma dall'Agenzia delle Entrate dove spesso transa, magari con i soldi nascosti all'estero e riportati grazie allo scudo fiscale pagando solo il 5% di interessi. Qui invece si tratta di persone che hanno dichiarato tutto, ma che per ragioni legate alla crisi, al calo dei fatturati o magari alla salute, non sono più riusciti a versare il dovuto. E per loro, tra sanzioni e interessi, si arriva al 120%, se non di più. Sul suo tavolo ha centinaia di casi Equitalia. Ha cominciato a occuparsene da consigliere comunale a Torino, chiedendo agli uffici competenti quante fossero ganasce fiscali e ipoteche sul territorio. I dati li ha aspettati per mesi, ma oggi li ha. Finora, solo su Torino e provincia, Equitalia ha iscritto circa 55.000 ipoteche, di cui 43.000 sono ancora attive. In tutta Italia siamo a oltre 1 milione e soprattutto su prime case. Non ha senso. Poi ci sono i fermi amministrativi in continuo aumento, emessi soprattutto per multe o tasse rifiuti non pagate. Le ipoteche invece diminuiscono perché dopo una sentenza della Cassazione del febbraio 2010 è vietato iscriverle per un debito inferiore agli 8.000 euro. Eppure, spiega Goffi, ci sono persone ancora alle prese con avvocati perché l'ipoteca gliel'avevano messa per importi anche molto inferiori e non tutte dopo la sentenza sono state cancellate. In queste vicende ci è incappato anche lui. Mio padre era artigiano e ha vissuto queste difficoltà. È stata molto dura per me e la mia famiglia, ma ho cominciato a sollevare la questione solo dopo che mio padre, che non era un evasore, ha saldato fino all'ultimo euro. Adesso mi ritrovo con persone come lui, disperate, con le rate da pagare, ma se ne salti una, la rateizzazione si blocca. È assurdo e fa male. Il problema oggi sono le piccole e medie imprese che tra crediti da riscuotere e debiti da pagare rischiano di chiudere, soprattutto se alla crisi si aggiunge Equitalia. A volte i crediti li hanno proprio con lo Stato, che paga in ritardo, ma con Equitalia pretende puntualità. Quello che è vergognoso è che su più di 4.300 casi che ho esaminato in 3 anni, molti sono a credito con lo Stato, ma non è prevista alcuna compensazione con Equitalia. Un caso è quello di un'azienda che nel 2004, anziché versare 1.700 euro per il condono di una tettoia, ne versa per sbaglio 87.340. Naturalmente il comune gli riconosce il rimborso, ma ritarda ad erogarlo. Però dal 2010 ha un contenzioso giudiziario con un dipendente per un importo INPS di circa 19.000 euro ed Equitalia, senza aspettare la sentenza, invia la cartella lievitata a circa 30.000 euro minacciando il pignoramento. E la pubblica amministrazione, per cui l'azienda lavora, gli blocca le commesse e i pagamenti. Adesso rischia di fallire e di lasciare a casa 26 dipendenti. Storie che si intrecciano. E mentre su Rai 3 Report nel 2010 aveva documentato il caso di alcuni privilegiati, partiti, grandi aziende anche pubbliche, personaggi noti, che riuscivano a trattare con Equitalia sospendendo e rimandando per esempio le iscrizioni di ipoteca o i pagamenti, allo sportello per i clienti in difficoltà non esiste discrezionalità. Così, per quanto in nessuna parte del mondo il fisco sia tenero con chi deve pagare, adesso praticamente tutte le forze politiche hanno chiesto meno severità. Il 21 giugno Governo e Parlamento hanno approvato il decreto sviluppo. Oltre ad aumentare il tempo di sospensione per chi fa ricorso dagli attuali 120 giorni insufficienti per ottenere le sentenze a 180, prevede avvisi bonari per chi ha debiti inferiori a 2.000 euro, niente più ipoteche sotto i 20.000 euro, ma solo se hai fatto ricorso e se si tratta della prima casa, basta interessi sugli interessi e rateazioni più lunghe per gli imprenditori in difficoltà. In più Equitalia rinuncia alla riscossione per conto dei comuni, anche perché le loro pretese risultavano molto spesso incomplete o persino infondate. Il problema è che le nuove norme non sarebbero retroattive. Come dire, se avessimo esagerato, a chi è toccata è toccata. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giovanna Boursier, Equitalia, caccia a chi le tasse le paga, da oggi, del 6 luglio.